Un saluto e un ringraziamento a Gabriele Di Luca, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, vi aspettiamo a teatro, grazie mille. Ciao.